voi volete interagire? Avete qualcosa? Ci sono altre domande magari prima? Max. Arriva locale per costruire quello che avete costruito. Sì, io sono un po' imbarazzato, mi imbarazza sempre questo strumento. Ah, va bene. Devo ripetere, avrà un senso diverso quello che dico. Appunto, volevo ricollegarmi all'introduzione, a questo desiderio dell'abitare, ok? Che spinge fondamentalmente l'individuo a creare comunità e a cercare un senso nella comunità, vuoi per protezione, vuoi per mille ragioni. Cosa che mi è parsa abbastanza evidente in quello che ha esposto Matilde per quanto riguarda il terremoto, lo tsunami nello Sri Lanka. E mi chiedevo se nel progetto Eva, che mi è parso di capire dall'inizio che è un progetto che è stato avviato prima del terremoto, se questo senso di comunità voi l'avete trovato nel dialogo sia con la comunità locale, sia anche con le istituzioni. Nelle mille forme, nelle mille accezioni che questo dialogo può avere. È un argomento molto... L'hai detto uguale, eh? Era uguale. Prego. Vabbè, parlo d'architetto, ho avuto esperienze di architettura partecipata, so cosa vuol dire confrontarsi con le istituzioni in Italia, so che è un muro di gomma, cioè rimbalzi, torni indietro, rimbalzi ancora finché non trovi l'interlocutore. E questo forse è la cosa peggiore del fare architettura e del costruire comunità in Italia. E mi chiedevo se in una situazione di emergenza si fosse trovato siete riusciti a trovare un canale preferenziale con le istituzioni e nello stesso tempo se siete riusciti anche a creare dibattito con la comunità locale al fine di ottenere un progetto che fosse un progetto che tenesse conto di diversi aspetti. Hai capito? Mi sembra abbastanza... È chiaro, spero. Io non ho il dono della chiarezza, quindi se, puoi farmi una domanda. Ok. No. No.